Ora voltiamo pagina, ritorna la pioggia al nord-ovest, mentre sono 16 le città da bollino arancione per l'AFA, traffico sulle autostrade per i primi esodi delle vacanze, tutto con Olimpia Mignosi. A Milano nemmeno il tempo di abituarsi al sole e acclimatarsi a termometri più estivi. Ieri temperature oltre i 30 gradi e ora alle porte è già un cambio di scenario. Dalle 14 di oggi fino alle 18 di domenica, dicono i bollettini, arriva il maltempo e un'allerta gialla per rischio idrogeologico. Previsti temporali e attenzione puntata sui corsi d'acqua Seveso e Lambro. Oggi allerta gialla della Protezione Civile anche in Valle d'Aosta, Piemonte e Veneto. Un andamento meteo altalenante tra caldo e freddo, sole e piogge. Oggi sono 16 le città col bollino arancione per le ondate di calore del Ministero della Salute. Temperature tropicali e cieli che in Sicilia si tingono di rosso per l'arrivo della polvere sahariana. Domenica sulla graticola saranno le aree di Siracusa, Catania e Caltanissetta. Temperature oltre i 40 gradi anche lunedì. Un caldo africano che mette a dura prova i campi e specchi d'acqua. Ecco l'immagine più eloquente della siccità in Sicilia. L'unico lago naturale, quello di Vergusa, in provincia di Enna, praticamente all'asciutto. Nell'ultimo fine settimana del mese si intensifica la circolazione dei veicoli in partenza. Sulle autostrade dell'Alto Adriatico scatta il primo bollino rosso per arrivi e partenze di turisti sulla riviera friulana e veneta.